Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR, 14 David riceve dal re di Tiro dei legnami e degli artefici per fabbricarsi un palazzo. Sposa delle altre mogli, e ne ha molti figliuoli. Dopo aver consultato il Signore, vince 2 volte i Filistei. Iram re di Tiro mandò anche gli ambasciatori a David, e dei legnami di cedro, e dei muratori, e dei legnaiuoli, i quali fabbricassero per lui una casa. E David conobbe, come il Signore lo aveva confermato re di Israele, e come il suo regno era stato elevato in gloria per bene di Israele popolo di lui. Davide sposò anche altre mogli in Gerusalemme, dalle quali ebbe figliuoli e figliuole. Ed ecco i nomi di quelli che nacquero a lui in Gerusalemme: Samua, e Sobad, e Nathan, e Salomon. Gebar, ed Elisua, ed Elifalet, e Noga, e Nafeg, e Yafia, e Lisama, e Baaliada, ed Elifalet. Ma i Filistei, avendo udito come David era stato unto re di tutto Israele, si mosser tutti per assalirlo, la qual cosa avendo saputa David, andò loro incontro. E i Filistei avanzatisi, si sparsero per la valle di Rapaim. E Davide consultò il Signore, e disse: «Verrò io a battaglia con Filistei, e li darai tu nelle mie mani?» E il Signore gli disse: «Va, io darò lì nelle tue mani». Ed essendo quelli venuti a Baal-Farasim, David in quel luogo li sconfisse, e disse: «Il Signore ha dissipati per mia mano i miei nemici, come si dissipano le acque», e per questo fu dato a quel luogo il nome di Baal-Farasim. E ivi lasciarono i loro dei, i quali Davide comandò che fosser dati alle fiamme. Un'altra volta ancora i Filistei fecero un'irruzione, e si sparsero per quella valle. E Davide consultò di nuovo il Signore, e Dio gli disse: «Non andar dietro ad essi, ai ritirati da loro, e anderai ad assalirli di rimpetto ai peri. E quando sentirai il rumore di uno che sale sulle cime dei peri, allora ti muoverai per venire alle mani. Però che Dio si è mosso dinanzi a te, per mettere in scompiglio il campo dei Filistei». Davide pertanto fece quel che gli aveva comandato il Signore, e pose in rotta i Filistei, da Gabaon sino a Gazer. E la rinomanza di Davide si sparse per tutti i paesi, e il Signore lo rendette formidabile a tutte le genti. Note 14,2, per bene di Israele popolo di lui. Per vantaggio e salute di Israele, popolo del Signore, impero che, come lasciò scritto un grand'uomo, benché gentile, si elegge il re non perché egli pensi a se stesso, ma affinché per mezzo di lui il popolo sia felice. 14,11. Come si dissipano le acque. Come le acque gettate per terra si sperdono e spariscono. 14,15. E quando sentirai il rumore eci, questo era il segnale della venuta degli angeli del Signore in aiuto di Davide. 14,16. Sino a Gazer. Questa città era vicina ad Azoto.